Vabbè, ragazzi, noi iniziamo perché purtroppo abbiamo i tempi un po' stretti e dobbiamo iniziare alle 15:30, che poi ci sarà l'altra presentazione, autodeterminazione e antifascismo, sempre in avvicinamento alle 4 giornate di Dax. Quindi diamo inizio a questa presentazione. Ringraziamo tutti i presenti e le persone collegate. Mi presento, io sono Sebastian, faccio parte di rugby sportivo, che insieme alle altre polisportive, tra cui anche quella del Barahonda che ci ospita e ringraziamo nuovamente, facciamo parte delle assemblee di sport popolare che hanno indetto e organizzato la giornata del 19 di marzo, che sarà una giornata di sport popolare, appunto, che si inserisce nella 4 giorni in memoria a Dax, Davide Cesare, antifascista ucciso durante la nottinera di Milano da polizia e fascisti. In particolare vorremmo anche dedicare la giornata del 19 di marzo a Federico Martin, che è un rugbista professionista che è stato ucciso l'anno scorso dai fascisti del Rassemblement National a Parigi. E saranno quindi delle giornate all'insegna della memoria, ma soprattutto anche della pratica antifascista e anticapitalista. E noi, in quanto sportivi e sportive, mi sentite? Okay. Noi, in quanto sportivi e sportive, sappiamo che la lotta di liberazione passa attraverso la liberazione delle soggettività, degli spazi, ma anche attraverso soprattutto dei corpi e quindi anche per mezzo, dello sport. Lo sport, in questo senso, è in grado di diventare un vero e proprio toolkit, una cassetta degli attrezzi per sottrarre al capitalismo capitale umano. Per sottrarci dallo sfruttamento, per sottrarre dalla riproduzione sociale e soprattutto anche spazi. Infatti, non a caso, l'anno scorso, nel 2022, abbiamo occupato un campo sportivo in occasione appunto del 19 di marzo e abbiamo organizzato dei tornei inclusivi, sottraendo quindi capitale umano, tesseramenti allo sport mainstream. Quest'anno, in occasione del ventennale di questo anniversario, abbiamo deciso sempre comunque di trattare la relazione tra sport e capitalismo anche in occasione delle Olimpiadi del 2026 che saranno ospitate tra Milano e Cortina. Quindi nel nostro percorso di avvicinamento a questa data, a questo anniversario, abbiamo organizzato dei momenti di sport e di pratica e di condivisione di pratiche sportive. Così come anche dei momenti di confronto e di analisi, di focus su quello che sarà il reale impatto delle Olimpiadi del 2026. Quindi, e questi incontri sono stati partecipati, dobbiamo ringraziare per la formazione il collettivo Off Topic e anche. Che è il collettivo Off Topic che appunto ha recentemente fatto un seminario su quello che saranno le Olimpiadi. E il comitato No Olimpiadi di Torino del 2018. E abbiamo quindi capito qual è la natura delle Olimpiadi nelle sue varie implicazioni, ovvero nelle sue intersezioni. E abbiamo quindi capito che le Olimpiadi sono in realtà un dispositivo di esclusione, di devastazione e depredazione dei territori, un dispositivo e anche un teatro di corruzione che molto spesso è volto ad attuare un vero e proprio stato di eccezione che comporta di conseguenza la militarizzazione dei territori. Quindi, cercando di aprire uno squarcio sulle Olimpiadi, abbiamo affrontato però la premessa necessaria. Le Olimpiadi, i giochi sono già stati decisi, i giochi sono già fatti, quindi è impossibile pensare, di cercare di costruire un fronte che si opponga alla realizzazione dell'evento, ma comunque, ci muoviamo in questa direzione cercando di costruire un percorso in direzione ostinata e contraria a quello che sarà questo evento del 2026. Questo evento, le Olimpiadi del 2026, si inseriscono perfettamente in quella che è la fase attuale delle Olimpiadi, ovvero di un evento in grado di sussumere tutte le istanze di genere, di inclusione o ambientali in favore del marketing territoriale e dei diritti televisivi. Nonostante la sua connotazione storica, cioè attuale, è comunque importante non trascurare quella che è la storia delle Olimpiadi, che comunque appunto è sempre in tal senso denotato. E infatti la paternità delle Olimpiadi si deve a un barone svizzero che si chiama Pierre de Coubertin, il quale nel 1912 esordiva dicendo che le Olimpiadi, delle Olimpiadi femminili non sarebbero estetiche, interessanti, apprezzabili né tantomeno corrette. Non a caso fino al 1980 tutti i membri del Comitato Olimpico sono infatti uomini. Però appunto in quanto sportivi e sportive per noi è importante anche ricordare qual è stata l'altra storia delle Olimpiadi, ovvero il fatto che le Olimpiadi nella storia recente sono state un'occasione di costruzione di grandi movimenti di boicottaggio internazionale, piuttosto che di costruzione di vere e proprie alternative che hanno visto il protagonismo di genere e di classe costruire delle alternative conflittuali. Infatti è importante ricordare per prima Alice Milieu, che nel 1921 ha ideato per prima le Olimpiadi femminili, così come anche le Spartachiadi che venivano giocate nell'Unione Sovietica nel 1920, così come anche le Olimpiadi popolari e proletarie che venivano giocate invece in Europa e in ultimo ma non per importanza le Olimpiadi Popular de Barcelona del 1936, che sono appunto state rinominate le Olimpiadi dell'Utopia perché appunto nate in seno a un contesto di rivoluzione sociale. E sono questi, in quanto sportivi e sportive, gli esempi che ci ispirano a costruire questo fronte, questo germe embrionale di fronte in opposizione alle Olimpiadi. Entrando nel merito di quello che sono le Olimpiadi oggi, quelle del 2026, bisogna fare la premessa che appunto si svolgeranno tra Milano e Cortina. E anche in questo caso le Olimpiadi si dimostrano essere un pretesto per la realizzazione di grandi progetti urbanistici che altrimenti non avrebbero ragione di essere, o perché sono stati considerati, o perché erano progetti abbandonati ormai da decenni, o perché sono stati addirittura considerati degli edifici inagibili, non idonei. E quindi sul territorio vediamo come le Olimpiadi del 2026 interverranno sulle valli e sulla città metropolitana. In particolare le valli saranno interessate, in particolar modo le valli di Cortina, D'Ampezzo, la Val di Fiemme, il Trentino Alto Adige, la Valtellina, così come anche le valli di Alpine, il Bornio, Cortina e la Val di Fassia, che in realtà ancora prima delle Olimpiadi del 2026 sono sotto attacco da un modello di turismo che non è più sostenibile, e, al di là proprio del cambiamento climatico, ma proprio per via dei paesaggi che hanno in sé un fragile e delicato ecosistema e sono spesso oggetto di dissessi nel loro equilibrio ecosistemico e idrogeologico e banalmente pensare di perpetrare una pratica come lo sci alpino è davvero qualcosa di anacronistico e assurdo che non tiene proprio in considerazione il fatto della scarsità delle risorse banalmente come l'acqua. E quindi vediamo come nel contesto montano si stanno sviluppando un modello di offerta abitativa, un modello di mobilità, un uso e una privatizzazione dello spazio che vanno di pari passo con la depredazione dei territori, anche metropolitani, e che si rifanno a, a degli interessi che non rispecchiano quelli di chi ci abita 365 giorni l'anno, ma di chi vive altrove e li abita solo in modo solo temporaneamente, e che ivi vuole trovarvi tutti i comfort che generalmente trova in città. Mentre tornando su Milano invece, le Olimpiadi del 2026 saranno un'occasione per la realizzazione di grandi operazioni speculative e finanziarie che si sostanzieranno nella ristrutturazione di, e realizzazione di alcuni palazzetti. Appunto, quindi nel capoluogo lombardo il comitato organizzativo prevede di svolgere le gare di hockey e di sci al Pala Italia di Santa Giulia, così come anche all'Arena di Hockey di Milano, che si trova invece in Lampugnano, e al Mediolanum Forum. È assurdo ed importante notare che di questi tre edifici solamente uno è attualmente in funzione e pronto per l'utilizzo, gli altri due non esistono per diverse ragioni. Ma comunque su questi impianti si sta giocando una partita milionaria intorno appunto a queste gare, e banalmente appunto le zone interessate saranno il Pala Italia di Santa Giulia, che si trova tra Rogoredo e la tangenziale A51, e comprende anche Corvetto, che bisogna precisare in realtà è interessata da operazioni speculative già precedenti e distaccate da quelle che sono le Olimpiadi, che vede il protagonismo di Coima e di Fondazione Prada insieme all'amministrazione locale, che devono essere, che bisogna considerare come i reali responsabili e mandanti delle operazioni di sfratto e di sgombero massive che stanno colpendo il quartiere Corvetto. Poi l'altro luogo in cui appunto si interverrà a livello urbano è l'Arena di Hockey di Milano, che si trova appunto in Lampugnano. E questa operazione coincide quindi con il riuso di un edificio dismesso, che era appunto il Pala Sharp, costruito da una nota famiglia borghese milanese, che poi negli anni 90 questo edificio, che è stato considerato inagibile, è stato acquisito al patrimonio del comune. Fino al 2011, quando appunto il comune ha deciso di dichiarare questo edificio appunto inagibile da demolire. Solo che le demolizioni non sono mai state realizzate differentemente da quanto aveva annunciato il comune, e quindi con le Olimpiadi del 2026 il comune coglie l'occasione per la ristrutturazione di questo edificio, che comunque, anche a detta dagli stessi membri del Comitato Olimpico, risulta non essere idoneo ad ospitare le gare. E soprattutto bisogna notare come, nello specifico in questo caso, il Comune di Milano abbia bypassato tutta una serie di procedure che appunto fanno notare il contesto di corruzione in cui si inserisce. Appunto è stato inizialmente costruito da una famiglia borghese di Milano, poi è stato acquisito al patrimonio, poi è stato nel 2007 dichiarato abusivo dalla Corte d'Appello, per poi nel 2011 il Comune di Milano dichiararlo da abbattere. E poi su questo stesso immobile è sorta una diatriba giudiziale con la vicina casa delle suore, che appunto lamentano la necessità dell'abbattimento della struttura. Ma nonostante ciò il Comune di Milano ha riacquisito l'immobile e la consulta ha poi rivalutato come agibile e ha considerato inefficace il ricorso della casa delle suore. Quindi questi sono più o meno brevemente appunto gli interventi che verranno effettuati sul territorio milanese. Detto questo, passo la parola a Tommaso Delle Sberle. Scusate, a Pasqua. Ah, ciao a tutti, ciao a tutte, salutiamo gli amici della BRIC di Tolosa e del Menin Montant che sono online. E niente, questo è quindi l'argomentazione che ci ha spinto, oltre a cercare di organizzare la giornata di sport popolare, anche una presenza per il 18 marzo in piazza con un livello contenutistico, cercando di creare un primo momento di piazza per costruire un'opposizione a Milano Cortina, ce l'ha spiegata bene il nostro compagno. Per quanto riguarda lo sport popolare, poi la nostra presenza sarà all'interno delle quattro giornate, distribuita appunto in vari momenti. Inizieremo con il 16 di marzo, dove ci sarà il solito corteo in zona ticinese, la commemorazione di Dax, ci sarà anche la presentazione del documentario inedito Ancora brucia, ancora brucia dentro? Ok, scusate. E comunque nel 16 di marzo proporremo anche all'interno del corteo un intervento per Federico Martin, che è questo rugbista argentino che è stato ucciso in Francia da estremisti di destra che sono vicini sia al Rassemblement National ma anche alla GDU, che è una componente di estrema destra che è paragonabile alla nostra Casa Pound italiana, ecco, diciamo. E questo ragazzo è stato ucciso perché si è messo di mezzo, diciamo, a degli insulti che questi fascisti stavano dando, cioè, si stavano relazionando con dei migranti. Questo ragazzo si è messo di mezzo e poi questi due fascisti sono tornati con le pistole, hanno sparato e hanno ucciso questo rugbista qui, Federico Martin. Quindi faremo un intervento nel corteo del 16 di marzo. Il 17 di marzo ci sarà l'Assemblea Internazionale che inizierà alle 5 di pomeriggio, più o meno 5 e mezza, 6, e ci saranno all'inizio due tavoli su antifascismo e repressione. E quei tavoli sono aperti a tutte le realtà che vogliono intervenire sulle tematiche di antifascismo e repressione, quindi invitiamo anche le realtà di sport popolare che ora sono online, se vogliono, a cercare di preparare degli interventi mirati, però non correlati allo sport, sull'antifascismo. Noi come Assemblea di Sport Popolare del 19 marzo probabilmente non faremo un intervento, ma prepareremo uno scritto che sarà di rilancio per i momenti dei due giorni successivi, quelli del 18 marzo e quelli del 19 marzo. Il 18 di marzo, come detto, ci sarà il corteo e noi scenderemo in piazza, faremo lo spezzone per lo sport popolare. E la tematica appunto è quella che ha descritto prima il compagno: costruire una prima opposizione contro Milano Cortina 2026. Ieri c'è stato ad esempio il corteo di Fridays for Future. Io personalmente sono abbastanza contento che comunque anche gli studenti giovani hanno fatto una piccola azione simbolica andando al CONI e tappezzandolo di adesivi e attacchinando anche degli striscioni riguardo l'ecosostenibilità di Milano Cortina 2026. Questo è molto importante perché vuol dire che non siamo solo noi della realtà di sport popolare, delle realtà di sport popolari milanesi a interessarci dell'argomentazione, ma a quanto pare questa cosa un po' travalica anche con la rete studentesca e potrebbe essere interessante anche, insomma, in piazza relazionarci, sì, il 18 di marzo. E poi arriviamo alla giornata del 19. Il 19 a livello sportivo ci sarà il torneo di rugby a 15 misto con presenze appunto dall'estero, con la presenza della BRIC di Tolosa e di varie componenti della rete del rugby popolare nazionale, da compagni e compagne da Brescia, Bologna, Genova, Roma, Salerno. Ora dobbiamo ancora capire bene i numeri, però l'idea è di fare un quadrangolare, quindi un piccolo torneo di rugby misto a 15. Poi ci sarà il torneo di calcio, che dovrebbe prevedere un torneo con più o meno 16 squadre, Ci sarà un momento per gli sport da combattimento, quindi ci saranno allenamenti condivisi e collettivi e sparring. Ci sarà poi anche uno spazio per i tessuti e l'acrobatica aerea. Ricordiamo che la giornata di sport popolare sarà all'aperto al Parco Lambro e quindi per quanto riguarda l'acrobatica aerea e i tessuti si proverà a sfruttare ciò che la natura ci dà in quel piccolo spazio di verde confinato nella distesa di cemento di Milano. E poi ci sarà anche la pallavolo, vediamo se si riusciranno a montare un paio di reti per fare un campo di green volley e un campo di beach volley, e forse arriverà pure Mile Sciro, non lo so, poi vediamo. Quindi questo a livello di struttura sportiva. Noi non ci dilunghiamo troppo su questo, se volete comunque c'è sia il Facebook di Dax Resiste piuttosto che i vari Facebook e di Instagram delle realtà sportive che stanno organizzando, che oltre a noi di rugby sportivo sono, le citiamo, le Sberle con la box, la palestra popolare di Zam, la palestra popolare di Torricelli, c'è la Sant'Ambrose con l'Armata Pirata per quanto riguarda il calcio, c'è l'Ardita Giambellino, c'è la Brigata Dax, c'è anche la palestra del Baraonda, quindi che parteciperà con i tessuti, il T28 e il Boccaccio con la pallavolo, quindi le realtà interessate sono svariate. Quindi per maggiori dettagli potete scriverci o sulle mail o su Facebook eccetera. Un momento importante che reputiamo noi importante all'interno della giornata di sport popolare è il momento assembleare, perché ci pareva interessante anche cercare di avere un confronto con altre realtà sportive che abbiamo invitato un po' da fuori per questa giornata di sport, e anche con realtà internazionali. Prima di lasciare la parola al compagno che ci spiegherà un po' su quali punti verterà l'assemblea di sport popolare, che sarà proprio nel mezzo della giornata, inizieremo dalle 10 di mattina con dei ritrovi, allenamenti condivisi, e dalle 11 più o meno i tornei. Alle 2 ci sarà la pausa pranzo con l'assemblea, questo accadrà tra le 2 e le 4. Dico solo, prima di lasciarti la parola, che in caso di pioggia la giornata si terrà lo stesso. Il rugby e il calcio con pioggia e fango giocheranno comunque al Parco Lambro. La box si terrà al chiuso in uno spazio che verrà comunicato a ridosso delle 4 giornate. Per quanto riguarda i tessuti, non so come se la potranno gestire i compagni e le compagne. Chi vuole giocare a pallavolo pure sul cemento, se vogliono, io non mi esprimo. I tessuti, se lo spazio alternativo che verrà preso sarà idoneo, si saranno montati comunque dentro e verranno fatti comunque l'acrobatica aerea. Va bene, allora ora lascio spazio al compagno che ci spiegherà un po' la struttura dell'assemblea e noi più o meno ci siamo. Grazie Pasqua. Giriamo la telecamera. Ciao a tutte, io sono Tommaso del gruppo delle Sberle di Box Popolare. Sarò molto, molto breve. Nella giornata di assemblea del 19 riprenderemo un po' di temi che si sono cominciati a discutere, innanzitutto tra la rete di sport popolare che si è formata appunto per la creazione di questa giornata 19, e che verranno poi piano piano rilanciati anche nei giorni precedenti, quindi nell'assemblea 17 lasceremo in particolare un volantino informativo, e poi anche nel corteo 18 faremo degli interventi e il nostro striscione che stiamo elaborando. Diciamo che alcuni i temi da cui volevamo partire, con poi l'incoraggiamento a tutte le realtà a portare qualsiasi spunto che leghi in qualche modo sport popolare e lotta al capitalismo e al fascismo, e quindi partendo da questo tipo di pratica e di idea, ovvero sport popolare come lotta incorporata nei nostri corpi ad un sistema che non ci piace, siamo partiti all'interno di una riflessione critica verso innanzitutto lo sport mainstream che riproduce forme di sfruttamento, precarizzazione del lavoro e discriminazione del genere in molteplici forme. A livello di genere, per esempio, soprattutto in termini di riconoscimenti salariali e di riconoscimenti in termini di categorie. La nostra riflessione si è incentrata soprattutto sull'idea di corpo e come la pratica dello sport popolare possa liberare il corpo in termini di genere, per esempio, come lo sport mainstream sia legato a un certo tipo di rappresentazione del corpo, ovvero un corpo perfetto, tra virgolette, ovvero perfettamente eteronormato e binarizzato, quindi in categorie rigidamente maschili e femminili, quindi l'estrema impossibilità di fare sport misto, come invece si pratica in molte diciamo, realtà di sport popolare, e come sia un corpo spettacolarizzato, e quindi in cui c'è una forte distanza tra il corpo atletico da Olimpiadi 2026, per intenderci, per riprendere un po' quello che ci diceva Seba prima, e il corpo, diciamo così, del popolo in qualche modo, il corpo popolare. Quindi l'Assemblea vuole essere un luogo in cui riprodurre quella stessa forma di scambio di saperi e pratiche che cerchiamo di creare quotidianamente nei nostri allenamenti, dove il rapporto tra le persone che partecipano allo sport è il più possibile orizzontale e guidato da forme di autodeterminazione e autogestione, in cui cerchiamo quindi di decostruire rapporti autoritari allievo maestro, senza per questo dimenticare come ci possono essere delle forme di trasmissione del sapore da persone che hanno più esperienza e che possono quindi essere insegnanti a maestri, e persone che hanno iniziato più tardi a praticare lo sport e quindi in qualche modo sono allievi discenti in qualche modo, ma cercando un po' di costruire quelle relazioni di dominio che molto spesso si riproducono nello sport mainstream e che di fatto configurano relazioni verticistiche o consumistiche, dove spesso magari l'allenatore, il maestro in qualche modo è il venditore di uno sport, e chi partecipa a un tipo di palestra mainstream è un consumatore dello sport merce e quindi di una lottare il capitalismo attraverso lo sport significa anche decostruire lo sport come venduto come merce e quindi riappropriarsi di fatto dei nostri corpi, che una delle ultime nostre assemblee 2 settimane fa è venuto proprio fuori il tema anche del riappropriarsi delle emozioni e quindi andare oltre lo sport come spettacolo, oltre lo sport mediatizzato attraverso diciamo così le grosse piattaforme di distribuzione dello sport attraverso la televisione, attraverso i canali internet, e vivere lo sport dal vivo e in cui le emozioni sono vissute dentro i nostri corpi in forma riappropriata in qualche modo, e non attraverso qualche canale on demand in televisione. Quindi anche l'idea di costruire finalmente l'idea di ipercompetitività dello sport e dello sport come sopraffazione dell'altro e dell'altra. Per esempio nella box quello che si sta tentando di provare a ricostruire anche un percorso su cosa significa andare magari oltre il concetto di sopraffazione, di KO dell'avversario o anche addirittura di vittoria sull'avversario. E ogni sport, io ho parlato adesso della box perché è un po' lo sport che pratico, ma questo discorso riguarda tutte le discipline. L'assemblea, quell'assemblea di 19, può essere una bella occasione per uno scambio di saperi anche tra sport diversi, un po' per portare anche un approccio intersezionale anche tra diverse pratiche e discipline sportive, e anche per pensare a una città, un modo di stare nella città diverso, dove riappropriarsi del corpo significa anche riappropriarsi degli spazi. Ed è, prima Seba l'ha detto bene, come Milano stia cambiando e cambierà piuttosto pesantemente per rispondere alle esigenze del capitale, in particolare delle Olimpiadi 2026, a partire dagli scali e fino ad arrivare alle valli alpine. Direi che mi sembra di aver toccato un po' i vari punti su cui vorremmo partire per l'assemblea. Non è stato particolarmente chiaro e schematico, poi a ridosso delle giornate del 19 daremo una struttura più precisa da cui partire.